24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori. È il momento di parlare dell'economia. Soldi e dintorni. E allora uno rientra dalle vacanze, no? Vede tanti bei colleghi e belle colleghe. Poi vabbè, c'è anche Deborah Rochant. Ritrovata. Te l'hai ripensata sì, per tutte le vacanze, è questa? Chiaro, oppure così, insomma, ti è venuta qua sull'istante al tutto momento? Tutto agosto a pensare a questa battuta. Io invece sono felice di rivederti, guarda un po'. Ma anch'io, dai, era scontato. Ma volevo così iniziare con un po' di punzecchiature. Ma sì, che sono un po' quelle cose che piacciono tanto ai nostri ascoltatori, che pensano ancora una volta, lo che ricordiamo, ci odiamo, che ci odiamo, certo. Invece insomma ci divertiamo. Dobbiamo alimentare un sacco questa cosa così. Questo pettegolezzo, questo gossip. Allora, Deborah. Ecco qua, allora, rientriamo dalle vacanze, si ricomincia a parlare di soldi e dintorni. Questa mattina andiamo subito ai mercati finanziari e quindi abbiamo dato un po' di tregua alle famiglie italiane di risparmiatori in agosto, magari non ne tornando a parlare tanto di questi argomenti. Oggi ci ritorniamo invece perché quello strumento di investimento che per tanti anni è piaciuto molto alle famiglie italiane, parliamo dei titoli di Stato, sta toccando appunto dei rendimenti storici minimi. E allora noi vogliamo analizzare questa tendenza per capire che cosa significa sia per i risparmiatori che ancora puntano su questi prodotti, ma anche per esempio le casse del nostro Stato, che sta notando un grande affollamento appunto alle aste che organizza. Allora, questa mattina ti abbiamo interpellato per farci un po' commentare questo andamento. Angelo Drusiani, responsabile delle gestioni di Banca Albertini SIS. Drusiani, buongiorno. Buongiorno a voi, bentornati. Tra l'altro, su questo argomento con lui abbiamo realizzato l'ultima puntata di Salvadanaio prima della pausa estiva, il 31 luglio, e adesso ovviamente lo abbiamo chiamato anche per la prima puntata di Soldi e Dintorni del nuovo corso autunnale. Drusiani, quindi ancora grazie di essere con noi, e lo abbiamo interpellato anche perché è l'esperto dell'argomento per il Sole 24 Ore. Notiamo la sua firma molto di frequente sul quotidiano. Oltre a questo è anche autore di una recentissima pubblicazione, Guida ai titoli di Stato, sempre del Sole 24 Ore, come dar vita ad un portafoglio di titoli pubblici, quali strumenti scegliere in base alla propria propensione al rischio. E magari ci faremo dare anche la ricetta autunnale di investimento per chi continua a preferire invece della borsa l'investimento in titoli pubblici. Allora, la settimana scorsa la notizia dei minimi storici di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a 6 mesi, che se acquistati danno un rendimento, faccio un esempio, di 8 centesimi su 100 euro spesi e investiti. Drusiani, allora, come dobbiamo commentare questa tendenza? Peraltro ci sono dei record minimi che sono stati toccati di asta in asta. È una tendenza destinata ad arrestarsi? Prima o poi noteremo ancora record minimi? Io credo che sia la ricerca della sicurezza che sta dando luogo a questi rendimenti bassissimi. In sostanza, comprando titoli di Stato, chi investe sente di essere certo del ritorno del proprio capitale. Di conseguenza è disposto anche in questa fase a rinunciare dei rendimenti anche di livello maggiore se dovesse comprare titoli societari, pur di essere certo del ritorno del proprio patrimonio. Quindi l'impressione mia è che possa durare ancora per qualche mese, ma poi finirà, perché in effetti i rendimenti così bassi non è che piacciono agli investitori, anche a quelli prudentissimi. Ecco, come sono per esempio le famiglie italiane. Va però ricordato che le ultime aste organizzate dal Tesoro italiano sono state frequentate sì da risparmiatori piccoli, retail, li definiamo generalmente in questa maniera, ma soprattutto da investitori professionali, istituzionali, banche, imprese, assicurazioni. Che cosa vuol dire questo? Le grosse aziende, gli investitori cosiddetti istituzionali, devono bilanciare i propri investimenti. Quindi se da un lato ad esempio investono, parliamo delle banche che prestano soldi a clienti, quindi con ipotetici rischi di non ritorno, devono bilanciare il proprio portafoglio, i propri asset, il proprio attivo, comprando anche titoli che diano loro sicurezza, come diceva prima. Quindi alternano gli investimenti, tra virgolette, rischiosi, investimenti assolutamente tranquilli. Ovviamente i bot e i titoli di Stato italiani in generale offrono questa sicurezza che anche gli investitori istituzionali amano seguire. Allora, la ricerca, l'investimento in titolo di Stato in questo momento rende molto poco, lo abbiamo ricordato, soprattutto le scadenze brevi. Questa non è una buonissima notizia per i risparmiatori, dicevamo che negli anni 80 e 90 privilegiavano questo strumento di investimento perché invece garantiva un tasso di rendimento a 2 cifre. È un investimento, dicevamo, che viene considerato come un parcheggio in questo momento. aumento della liquidità disponibile per banche, per imprese. È una notizia però di che genere per il Tesoro, che vede questo affollamento alle proprie aste, Drusiani? Indirettamente è un beneficio anche per noi tutti, perché il debito dello Stato viene finanziato con costi molto inferiori, quindi di conseguenza in teoria sulle tasse dovrebbe pesare un po' meno. Però noi guardiamo sempre dalla parte degli investitori, quindi c'è un po' di delusione, di amarezza, però sicuramente in questa fase lo Stato fa bene ad emettere molti titoli, perché riesce a finanziarsi a tassi molto bassi anche con durate molto lunghe, quindi questo consente al debito pubblico italiano purtroppo di crescere ancora, perché non c'è ancora la fase discendente, però quantomeno di costare molto meno rispetto a quanto costava solo un anno fa. Allora, con le aste naturalmente il Tesoro deve finanziare tutte le operazioni anche di sostegno all'economia che ha messo in campo negli ultimi mesi a fronte della crisi finanziaria. Fino a questo momento però mi sembra che le aste siano, numericamente parlando, Drusiani, rimaste quelle regolari. Ne organizza il Tesoro 2 al mese, non ci sono state operazioni per fortuna straordinarie. No, il Tesoro continua ad emettere gli stessi titoli che emetteva ad esempio nel 92, quando i tassi, come giustamente lei ricordava, erano a due cifre, addirittura al 17-18% di rendimento, a fronte ovviamente di un'inflazione molto più alta. Questo è abbastanza interessante, perché significa che lo Stato poi non ricorre in maniera massiccia alla richiesta di denaro, quindi l'indebitamento pubblico, pur crescendo, cresce a livelli normali, non c'è stato quell'affollamento come è successo in altri paesi, penso agli Stati Uniti, penso all'Inghilterra, dove il debito pubblico è cresciuto in maniera maggiore, non dico esponenziale, ma sicuramente maggiore, per il salvataggio di alcune banche che in Italia per fortuna non hanno avuto luogo. Allora, rendimenti vicino allo zero per quello che riguarda le brevissime scadenze dei titoli di Stato. Per quello che riguarda invece le scadenze più lunghe, il decennale, il BTP, come sta andando? Ecco, questi sono ancora molto interessanti a livello di rendimento, perché ad esempio un titolo italiano a 10 anni di durata rende il 4% lordo, se raddoppiamo, se andiamo a 20 anni, il rendimento è addirittura vicino al 5%, quindi secondo me chi dovesse investire, chi non avesse bisogno ovviamente di una quota del capitale e preferisce congelarlo, fra virgolette, nel senso di lasciarlo senza più intervenire, su questa scadenza secondo me farebbe bene ancora comprare qualche emissione, perché non credo che i rendimenti di questi titoli saliranno in tempi molto brevi. Ecco, fino a qualche mese fa il BTP, il nostro titolo decennale, veniva considerato molto rischioso rispetto alle pari scadenze degli altri paesi europei, delle maggiori economie, in particolar modo rispetto alla pari scadenza tedesca, il cosiddetto Bund. Oggi il rapporto qual è? Il rapporto è sensibilmente sceso, da un punto e mezzo di rendimenti in più siamo scesi vicino a 60 centesimi. C'è da dire che quando c'era un punto e mezzo di scarto era ovviamente a livello speculativo, perché non c'erano ragioni di pensare che il debito pubblico italiano fosse così peggiorato in questi mesi, anche perché, ripeto, l'Italia non ha salvato nessuna banca, la Germania ad esempio ne ha salvate almeno 6. Di conseguenza anche il debito pubblico tedesco è aumentato in maniera maggiore di quanto sia aumentato quello italiano, pur rimanendo a livelli più bassi complessivamente. Quindi quel differenziale è un differenziale gettato soprattutto dalla speculazione. Un differenziale appunto determinato soprattutto dalla speculazione, che oggi per fortuna si è fermata. C'è anche da ricordare un'altra cosa, che molto spesso per chi investe in titoli di Stato non viene tenuta forse nella dovuta considerazione, ma magari questo aspetto riguarda soprattutto le obbligazioni dei cosiddetti paesi emergenti. Quando anche un titolo di Stato ha un rendimento molto elevato, in ogni caso c'è da dire che ad elevato rendimento corrisponde anche un rischio più elevato. Per chi, Drusiani, guarda al titolo di Stato e solo ed esclusivamente a questo come forma di investimento nel proprio portafoglio, oggi secondo lei quali sono le migliori opportunità che ci sono sul mercato? Io credo che al di là dei titoli decennali e ventennali, anche trentennali, che secondo me in questo momento vale ancora la pena, sulle quali vale ancora la pena investire una quota del proprio patrimonio, ad esempio fatto 100 l'investimento in titoli di Stato, secondo me complessivamente si potrebbe arrivare a un 25% tra titoli decennali, cui dedicare la maggior parte, e titoli ultradecennali. La quota restante potrebbe essere investita ad esempio in parte, ancora un 20% in titoli a cedola variabile, perché non si sa mai cosa possa accadere, i mercati sono talmente difficili da valutare che d'improvviso potrebbe mutare tutto, i tassi tornare a salire, anche se io sono molto molto scettico in questo momento. E poi un 20% con titoli con durata entro 5 anni e un altro 20% con titoli molto più brevi con durata entro 18 mesi. Ciò che è importante secondo me è in parte, penso, diversificare, nel senso non comprare solo titoli di Stato italiani, anche se ovviamente la garanzia che offrono è abbastanza alta, perché il rating è ancora singola più, quindi un rating molto interessante, però investire anche in altri titoli di area euro non farebbe male, perché diversificare i debitori è sempre un aspetto molto, molto positivo e la strategia di portafoglio dovrebbe seguirla. E la diversificazione, insomma, è la principale regola dell'investimento, perché sicuramente ci protegge da ogni tipo di rischio. Questa è dunque la sua ricetta di investimento d'autunno, Drusiani? Sì, io però... La borsa, ecco, dobbiamo metterci in rapporto, ecco, anche questa. Esattamente, ecco. Io credo che almeno un 20% di titoli azionari sia... In questa fase è auspicabile mettere in portafoglio, perché le prospettive della borsa sono molto interessanti. Sembra che l'economia uscirà prima dalle difficoltà di quanto si ipotizzasse. E comunque l'andamento della borsa torneremo ad analizzarlo anche nelle nostre prossime puntate, magari di Soldi e Dintorni, sicuramente a Salvadanaio, perché dobbiamo anche commentare quello che è accaduto in questo mese d'agosto. E è accaduto qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che invece aveva contraddistinto il mese di agosto di 2 anni fa, quando proprio ad agosto era deflagrata la crisi dei mutui subprime. Io intanto ringrazio di essere stato con noi Angelo Drusiani, Banca Albertini, autore della pubblicazione del Sole 24 Ore, guida ai titoli di Stato, come dar vita ad un portafoglio di titoli pubblici. Drusiani, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Alessandro. Eccoci qua, allora, Salvadanaio. A Salvadanaio, allora, da domani al via la regolarizzazione per colf e badanti. Oggi esce un articolato dossier gratuito con il Sole 24 Ore con tutti i dettagli pratici di questa operazione, e quindi noi naturalmente abbiamo colto l'occasione al volo per parlarne. Sono le 8:32 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano. Sull'immigrazione serve rigore, dice il premier Berlusconi ieri a Tripoli con il leader libico Gheddafi. Intanto si registra un nuovo respingimento di migranti. Un barcone con 75 persone a bordo, tra cui donne e bambini, è stato intercettato davanti alle coste siciliane e riaccompagnato in Libia. Si difende il direttore di Avvenire Dino Boffo dopo la pubblicazione sul giornale di notizie riguardanti una vicenda giudiziaria che l'ho coinvolto nel 2001. Contro di me solo una patacca, dice Boffo. Replica il direttore del giornale Feltri, che oggi pubblica in prima pagina l'atto del Tribunale di Terni che riporta la condanna. Possibile svolta nel giallo di Garlasco, l'uccisione di Chiara Poggi, per cui è sotto processo il fidanzato Alberto Stasi. Alberto era a casa sua davanti al computer nell'orario in cui, secondo l'accusa, Chiara è stata uccisa. Lo ha accertato una nuova perizia, che ha anche accertato i carabinieri hanno cancellato senza volerlo le tracce che provavano la presenza di Stasi davanti al PC. E per lo sport il calcio, ieri si è completata la seconda giornata con la Juventus che vince a Roma contro i giallorossi 3-1, bianconeri a 6 punti in testa alla classifica con Sampdoria, Lazio e Genoa. Mentre per i motori in Formula 1 torna a vincere la Ferrari con Raikkonen in Belgio, e il motomondiale a Indianapolis vede trionfare Lorenzo mentre Valentino Rossi è caduto. Tutto questo alle 8:34 minuti. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666, dunque, come abbiamo anticipato, parliamo della visita di Berlusconi in Libia. Poi si è aggiunta questa notizia che ho ricordato anch'io, la vicenda del respingimento, ma la vicenda della visita di Berlusconi, sapete, era stata accompagnata da qualche polemica, insomma, l'unico leader occidentale che va da Gheddafi, però è andato per il trattato Italia-Libia, mentre non sarà, visto che è già rientrato in Italia, presente alle celebrazioni per i 40 anni della presa del potere di Gheddafi. Oggi vorrei iniziare da questo, la citazione di un'intervista sul Corriere della Sera a Roberto Calderoli, ministro, colui che, ricordate, fece anche vedere le vignette anti-islamiche con annesse polemiche, rivolte. Calderoli oggi che dice: evviva la Libia, evviva la Realpolitik. Mi sono reso conto che aveva ragione Berlusconi, le mie erano cariche contro i mulini a vento, o certe battaglie sono di tutti, o punto, prevale la Realpolitik. Insomma, chiede l'intervistatore, che è Marco Cremonesi, viva la Libia, viva il gas, senza il petrolio e il gas libici, risponde Calderoli, siamo in ginocchio. Dall'altra parte c'è l'immigrazione, Gheddafi è diventato un partner affidabile. Saluto il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, buongiorno. Buongiorno. Allora, ha fatto bene Berlusconi, sono polemiche inutili, sono polemiche sbagliate, e viva la Realpolitik, come dice Calderoli. Ma io credo che questa Realpolitik sia un'evviva, grosso modo, perlomeno, se mi consentite, dal 1974, da quando ci fu il primo accordo tra l'Italia e la Libia, tra Gheddafi e Moro. Io sono anche stupito che si parli della Libia, voglio dire così, a gettone, come se fosse un jukebox, usando questo tema su polemiche molto, molto interne. Il rapporto con la Libia è estremamente complesso, dura così complesso dall'epoca in cui Gheddafi ha preso il potere, ma è stato complesso anche ai tempi di Re Idris e dei Senussi, è stato complesso ai tempi del colonialismo, è stato anche per certi versi drammatico. Voglio dire, la realtà è che la Libia è un partner, come dire, che la geopolitica ci ha dato, al di là del mare, vicinissimo. Storicamente abbiamo rapporti commerciali con la Libia da sempre, li abbiamo avuti anche nei momenti più difficili dei rapporti politici, dei rapporti, voglio dire, che riguardavano il colonialismo. Che la Libia offra, grosso modo, ci fornisca un terzo delle nostre energie, non è da quando è al governo Berlusconi, ma è perlomeno dagli anni 80, dagli anni 75-76. La Fiat è stata pur quasi comprata dalla Libia nel 76, nessuno se n'è accorto, oppure nessuno se lo ricorda più, forse più correttamente. La Libia ha investito in Unicredit non più tardi di un anno fa. Cioè, voglio dire, senza arrivare ai rapporti della fornitura delle armi, dell'addestramento dei militari libici negli anni 77-78 in accordo con gli Stati Uniti, sui tanti complessi rapporti anche di altra natura, di altro tipo che abbiamo avuto con la Libia. Detto questo, è una realpolitik che è una continuità necessaria della politica italiana. L'interlocutore si chiama Gheddafi e, come diceva giustamente il presidente Andreotti, nella vita due cose non puoi scegliere: i parenti e i tuoi vicini, i tuoi confinanti. Questo è, e con Gheddafi occorre trattare. Credo di dover ricordare doverosamente in questo momento che in tutta questa vicenda forse gli unici che ci hanno, come dire, veramente ricevuto danno sono quelle migliaia di italiani che furono cacciati ingiustamente, sì, almeno a livello personale, dalla Libia, e a cui lo Stato italiano, devo dire con grande fatica, ha molto poco riconosciuto, per non dire quasi niente, degli indennizzi. Ma tra poco su questo senatore Mantica, tra poco ci sarà anche una rappresentante più avanti. Io però le chiedo, questa vicenda non è proprio materia della sua politica di intervento, ma questa vicenda del respingimento, visto che è cronaca di oggi, le chiedo questo: pare accertato che su questo barcone ci fossero in gran parte somali ed eritrei. Ora, lei conosce perfettamente, è uno dei politici che conosce meglio quell'area geografica. La Somalia, sappiamo, è un paese disfatto, non c'è uno stato centrale, eccetera. L'Eritrea, anche questo si può dire tranquillamente, c'è un regime dittatoriale. E allora, se li respingiamo, come facciamo a capire se queste persone hanno diritto, ed è un diritto riconosciuto allo status di profugo, allo stato di esiliato politico, per esempio? Guardi, io su questo altro tema vorrei ricordare, primo, che mi pare che la Libia faccia parte dell'ONU. Secondo, che la Libia è presidente dell'Unione Africana. Terzo, che non è vietato aprire uffici. D'altronde l'ONU e l'UNHCR hanno aperto un ufficio in Libia. Io credo che questo lavoro vada fatto in Libia, che vada, anche perché conoscendo un poco la Libia, essendo stato anche recentemente a Tripoli, dove sono gli eritrei somali, lo si sa più facilmente di altri, perché gran parte di loro fanno riferimento a quelle poche rimaste organizzazioni cattoliche che sono presenti in Libia. Voglio dire, io credo che sia doveroso da parte nostra, ma soprattutto della comunità internazionale, aprire in Libia un ufficio o più uffici dell'ONU per ricevere le domande di asilo. Cioè, che si faccia lì, che si faccia lì, che lei si dice. Faccia lì. Dove però, sa, lei come sa, non ha neanche firmato la Convenzione di Ginevra. Ma voglio dire, sì, anche questo è un'altra cosa vera. Allora rispondo dicendo, beh, ricordiamoci che la Libia è stata anche presidente della Commissione dei diritti umani dell'ONU. Ecco, appunto. L'ONU, perché non possiamo sempre invocare l'ONU e il multipolarismo quando ci serve, e in questo caso va usato, voglio dire, va utilizzato, va investito. L'Unione Europea, ricordava il ministro Frattini in un'intervista, lo ricordo ancora io, che forse c'è un dramma ancora peggiore di quello del mare, di cui tutti fanno finta di ignorare, perché è chiaro che il mare, come dire, fa più spettacolo, ma noi abbiamo anche la responsabilità delle migliaia di africani che muoiono nei deserti per arrivare in Libia, e nell'accordo con la Libia c'è un articolo, una parte che riguarda il controllo delle frontiere sud della Libia, che ovviamente, come potete immaginare, sono abbastanza difficili, essendo pieno deserto del Sahara, in cui è coinvolta l'Unione Europea, in cui l'Unione Europea deve dare un finanziamento perché si tratta ovviamente di un controllo satellitare. Cioè il problema è complesso in maniera enorme. Io credo, oltretutto lei ha ricordato questo mio confesso amore per questa parte dell'Africa che è il Corno d'Africa, e soprattutto per il popolo eritreo che sta soffrendo in maniera esasperata una dittatura di cui non deve pagare le conseguenze. Però ripeto, ci sono strade, pensare che si possa in mezzo al mare, come dire, farsi fare la domanda in tre coppie di asilo politico mi sembra fuori dal mondo. Credo e ce la facciamo in Libia, se si può fare, se ci si può organizzare per farla lì. Intanto l'UNHCR ha già aperto l'ONU pure, certo. Quindi voglio dire, la strada è quella. Poi c'è ancora una strada lunga e difficile. Io, per amor di Dio, non sto dicendo che è tutto così semplice. No, questo sì, sottosegretario. Allora, con noi è anche la professoressa Loretta Napoleoni, che voglio salutare. Buongiorno, professoressa. Buongiorno. È esperta, molto esperta di terrorismo internazionale, tra l'altro, oltre che economista. Vive, tra l'altro, tra Londra e gli Stati Uniti. C'è stata questa polemica sulla presenza, che poi non c'è stata, ai festeggiamenti, anche ieri, di Al-Megrahi. Chi è Al-Megrahi? È quel terrorista libico accusato di terrorismo, accusato della strage di Lockerbie, l'aereo che fu abbattuto e che è stato rilasciato con tante polemiche annesse anche internazionali. E però, professoressa, leggiamo dai giornali che secondo il Sunday Times anche il governo britannico avrebbe fatto questo rilascio per una realpolitik, cioè in cambio di affari petroliferi con la Libia. Allora tutto il mondo è paese. Sì, guardi, purtroppo tutto il mondo è paese, nel senso la Libia è un paese molto importante dal punto di vista energetico, è un paese che è stato riammesso nella comunità internazionale proprio sulla base di trattative relative all'attacco di Lockerbie. La Libia ha accettato di prendersi la responsabilità, ha pagato una somma ingente alle famiglie delle vittime e la situazione praticamente si è conclusa in questo modo. A quel punto c'è stato un processo di riavvicinamento durante la presidenza Bush ed un rientro, diciamo, della Libia nella comunità internazionale. Ecco, quindi praticamente direi che la realpolitik la fanno un po' tutti. Gheddafi, prima di questo riavvicinamento, era considerato un dittatore che dava ausilio a terroristi. Ricordo che Abu Nidal, famosissimo terrorista degli anni 70 e parte degli anni 80, è risieduto in Libia, è stato protetto dal governo libico e questo è solamente uno, diciamo, della lista di terroristi del diciamo arabi di quegli anni protetto da Gheddafi. Quindi purtroppo la realpolitik fa parte della politica energetica dei paesi occidentali e da appunto la metà degli anni 70, quindi dalla prima crisi energetica. Perché dice purtroppo lei? Perché non la condivide, o meglio, non bisognerebbe fare affari con l'Iran, non bisognerebbe fare affari con la Libia, non bisognerebbe fare affari... Dunque purtroppo, nel senso che non si può dire un giorno questo governo è un governo terrorista perché protegge questi individui e poi due giorni dopo, stipulati determinati accordi energetici, dire che questo non è vero. Ecco, purtroppo in questo senso, nel senso, si confonde anche in un certo senso la percezione del problema del terrorismo da parte della popolazione. Capisce? Questo sì, l'ho capito perfettamente. Allora, io andrei un attimo alle informazioni sul traffico, 349-238-6666 per i vostri messaggi, poi continuiamo con questo tema. Ci raggiungerà anche la rappresentante degli italiani, l'associazione degli italiani rimpatriati dalla Libia, Giovanna Ortu. Abbiamo letto che c'erano molti esiliati mandati via da Gheddafi tanti anni fa, che si sono presentati ieri con Berlusconi, sono stati invitati dal governo libico, erano lì, non c'era invece Giovanna Ortu, cercheremo di capire perché. C'era anche Marta Marzotto, ma questo rientra tra i misteri italiani. Alle 8:46 minuti stiamo parlando della visita di Berlusconi in Libia, delle polemiche che ci sono state, anche del respingimento del barcone, l'ultimo fatto avvenuto un paio di giorni fa. Voglio salutare dunque Giovanna Ortu, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, presidente dell'Associazione Italiana Rimpatriati dalla Libia, lei quando fu mandata via dalla Libia? Insieme a tutti gli altri nel 1970, dopo il decreto di espulsione del 21 luglio che è avvenuto in spregio del trattato internazionale senza che l'Italia ricorresse ai mezzi che il diritto internazionale le avrebbe fornito per proteggerci, tipo il ricorso a un arbitrato che era peraltro previsto. Senta, abbiamo perso veramente tutto. Che effetto le fa sentire, se l'ha sentito, ho citato l'intervista a Calderoli, e viva la Libia e viva la Realpolitik, ho sbagliato tutto. Prima poi l'ho sentita ripresa anche da tante rassegne stampa. Io l'avevo vista un po' come le manifestazioni di Cossiga, come una cosa un po' ironico-provocatoria, però sono d'accordo sia con quanto ha detto in merito alla Realpolitik e ai clandestini la professoressa, e sia quello che ha detto il mio amico Mantica, perché siccome non si vive di solo pane, sono molto contenta del fatto che lui abbia detto che gli unici ad averci veramente rimesso fino ad ora siamo noi e che l'Italia troppo poco ha fatto, e quindi mi appello a quanto ha dichiarato il ministro La Russa, che nel primo Consiglio dei Ministri proporrà una integrazione decente del nostro indennizzo. Ma lei non c'era perché ieri? Perché ho letto che c'erano alcune che sono andate. Chi è andato? Le dico subito molto brevemente, a parte il fatto appunto che non ho niente in contrario con quelli che sono andati a titolo personale. L'associazione si batte con il governo italiano, che considera il suo contraltare sul tema degli indennizzi, sui temi dei visti, quindi se questi sono a Tripoli oggi lo devono alla lunga battaglia che ha fatto l'associazione per ottenere il visto per tutti, perché noi eravamo discriminati in tema di visti, sia per ottenere le pensioni, perché erano state confiscate, si figuri, persino le pensioni, sia per esempio per il restaurato cimitero che proprio ho inaugurato con il mio amico su invito del sottosegretario Mantica non più tardi di due mesi fa, perché era in condizioni drammatiche. Quindi a un certo punto i libici, nel preparare la visita di Gheddafi in Italia, hanno preferito raccogliere tramite i loro amici, le persone ad una, che non ci fosse, e questo me l'ha detto anche Gaddur, una rappresentatività dell'associazione, come invece in passato c'era stata quando nel 2004 siamo stati a Tripoli, eccetera. Quindi io su quello che dicono i libici, per me il mio contraltare è il governo italiano. Se poi queste persone hanno pensato, come qualcuno mi ha detto, che andando lì Gheddafi regali 1000 euro per uno, oppure che ne so io, che gli prospetti determinati piccoli accordi di natura commerciale, per me ben vengano. Lo scopo dell'associazione è quello di difendere quello che è rimasto sul piatto, come ho detto al senatore Mantica, come ha detto bene il senatore Mantica, e cioè il nostro diritto all'indennizzo per i beni perduti. Riguardo a questo, senatore Mantica, cosa può fare il governo? Però le chiedo anche, la presenza ci fosse stata di Al-Megrahi, questo condannato per Lockerbie e rilasciato dalla Scozia, avrebbe creato problemi? O la presenza delle frecce tricolori? Cioè lei non vede nessun motivo assolutamente di imbarazzo in questa visita, in queste celebrazioni? Anche a titolo personale magari. Guardi, se devo essere onesto, io provo molti imbarazzi. Ho provato imbarazzo quando Gheddafi è sceso dall'aereo con la foto di Omar El Mukhtar appuntata sulla giacca. Ho provato imbarazzo sul fatto che abbia aperto una tenda beduina nel parco Dore Panfili, ma questo è il personaggio col quale da 40 anni noi abbiamo rapporti. E un po' così ci gioca anche, insomma, gli piace proprio provocare. Allora, posso usare un'espressione, ma anche per farci capire dai radioascoltatori. Noi per molti anni, forse per decenni, abbiamo usato la Libia, l'abbiamo usata, nel senso abbiamo fatto e non fatto alleanze e anche cose diverse, sempre in maniera molto molto nascosta. Nel momento in cui la Libia chiede e ha ottenuto, come era doveroso dopo 40 anni, la parità di trattamento, dobbiamo anche subire questo istrionismo del presidente Gheddafi, che evidentemente sta togliendosi anche molti sassolini nelle scarpe che ha avuto, insomma, no, nei confronti del nostro paese. Quindi c'è una sofferenza. L'idea peraltro delle frecce tricolori, devo dire francamente, non mi stupisce, ma perché anche da parte dell'opposizione questa, voglio dire, volgarità. Abbiamo fornito M113, abbiamo fornito Semoventi, carri armati negli anni 70-80 alla Libia, abbiamo fornito addestratori, la Francia ha fornito 100 aerei Mirage dopo il colpo di Stato di Gheddafi. voglio dire, questa demagogia banale, francamente, mi sembra nel mondo d'oggi, certo che uno può anche avere, come dire, un istinto di non simpatia per questo, però è uno Stato come tutti gli altri, abbiamo un rapporto paritario, celebra una sua anniversario, noi abbiamo le frecce tricolore che d'altro rappresentano l'Italia nel loro insieme, nel loro complesso, lasciano una striscia, queste eriche tricolore, voglio dire, fa parte dei rapporti normali che noi abbiamo con qualunque Stato, ormai la Libia è un paese normale, poi ci sono, voglio dire, delle sensibilità che possono colpire, io peraltro, e lo dico, non è la prima volta che lo dico, ci sono poi delle stranissime sensibilità, voglio ricordare, c'è un film che si chiama Il Leone del Deserto, fatto in America e pagato da Gheddafi, con il principale attore Anthony Quinn, che è Somare il Muhtar. In Italia per 30 anni c'è stata la censura. È vero, su questo è vero. Film. È stato fatto vedere quest'anno, credo. Quest'anno da Sky, credo, o da Medias, non mi ricordo. Ma insomma, voglio dire, allora, questi pruriti che noi abbiamo, da un lato, la realtà è che noi non conosciamo la nostra storia. Noi non abbiamo mai invaso la Libia, per esempio, perché bisognerebbe forse spiegarlo che nel 1911 la Libia non c'era, che c'era l'impero ottomano, che noi siamo scesi in Tripolitania e in Cirenaica, in due villaie, in due governatorati. Cioè, voglio dire, la Libia l'abbiamo costruita noi. Abbiamo un famoso scrittore che peraltro per molti anni è stato considerato anche amico dei libici, come Angelo Del Boca, che è stato censurato recentemente in Libia per aver sostenuto che la grande contrasto all'occupazione italiana, alla presenza degli italiani, viene dalla senussia, cioè da questa struttura, diciamo, anche religiosa e beduina, cosa che non piace al presidente Gheddafi, che ritiene che altre siano le ragioni della rivolta. Sì, ma tra l'altro su questo c'è stata anche una contestazione, perché c'è stata anche una mostra sul colonialismo che il nostro ambasciatore pare abbia un po' criticato, dice incompleta, ma anche questo è un altro tema molto delicato. Io però vorrei andare, per concludere, alla professoressa Napoleoni, da un altro ospite che tra l'altro è in partenza per la Libia. Professoressa Napoleoni, la vicenda del terrorista libico scarcerato e rientrato è una vicenda che, al di là del fatto appunto che si è saputo forse rilasciato per tutelare affari petroliferi, anche in America ha avuto strascichi, credo, no? Qual è la, visto che lei è in rientro proprio dagli Stati Uniti, so che lì Gheddafi la tenda non la pianterà, gli ha detto vai in albergo come tutti altrimenti qui non vieni, no? È così, quindi la Casa Bianca si è un po' risentita forse. Dunque, guardi, la posizione degli americani riguardo a Lockerbie è una posizione molto controversa, nel senso c'è una grossa fetta, diciamo, dell'intelligenza americana, ma anche dell'antiterrorismo, che è convinta che l'attentato di Lockerbie non l'abbiano fatto i libici, ma l'abbiano fatto infatti gli iraniani. Quindi è un argomento abbastanza controverso. Allora, il presidente Bush ha fatto questo accordo appunto con Gheddafi, di cui parlavamo prima, con l'aiuto anche di Tony Blair, e diciamo la versione ufficiale è che la Libia si è presa questa responsabilità, però in realtà non è quello che pensano gli americani. Ecco, quindi questo è molto importante proprio per chiarire la complessità, diciamo, dei rapporti, anche della difficoltà. Ecco, per quanto riguarda il rilascio, chiaramente sì, gli americani sono rimasti esterefatti, come credo praticamente tutti, dall'accoglienza che è stata fatta a questo individuo, però ripeto quello che è già stato detto dagli altri partecipanti a questa trasmissione, fa parte del personaggio Gheddafi, nel senso, certo, Gheddafi è un uomo che vive di propaganda. Sì, sono rimasti esterefatti magari anche coloro che, stando ai resoconti del giornale, hanno fatto poi gli accordi petroliferi, quindi ecco, sì, questo però, però se lo potevano aspettare, nel senso, cioè, conoscendo il soggetto, conoscendo il modo in cui si è comportato anche quando è venuto in Italia pochi mesi fa, ma è chiaro che fatto, cioè, adesso diciamo, no, ma è chiaro che tutto questo era previsto. Io, siccome devo correre, devo concludere, ho un minuto, ma voglio salutare Giuseppe Del Barna, buongiorno. Buongiorno. Lei mi sente in aeroporto, credo. È il presidente degli sbandieratori di San Sepolcro. Sta andando in Libia per festeggiare l'1, 2, 3 settembre i 40 anni di ascesa al potere del colonnello. Che ci fanno gli sbandieratori di San Sepolcro lì? Ma sa, noi siamo un pochettino più faceti nella nostra partecipazione. Noi portiamo un messaggio di cultura. Credo che forse siamo diciamo, quello che rappresenta un po' più la parte più, più leggera di questa, di questa grande... Certo, questo sì, ma non vi siete posti problemi, insomma, andiamo a celebrare un potere che è ancora un po' poco democratico, no? Ma sa, cioè, noi, io vorrei dire, sono 40 anni che vado in giro con gli sbandieratori, noi siamo stati, per conto della regione toscana, nel 1982 a Buenos Aires, in pieno regime militare. Ma come facciamo noi a porci il problema se c'è un regime militare, quando poi i nostri spettacoli si sono rivolti alla gente comune, agli italiani emigrati là? Quindi diventa anche difficile per noi poi discernire tra il potere politico e quello, certo, e le persone a cui noi andiamo a presentare lo spettacolo. E vabbè, allora voi buon viaggio, andate in Libia. Io ringrazio lei, così come ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, la sottosegretaria Mantica, Loretta Napoleoni, Giovanna Ortu. Che dire, devo solo ricordare la nostra mail 24mattino@radio24.it e Laura Marchesi in redazione con Carmelo Lauricella in regia. Bene, lascio la linea al nostro direttore Gianfranco Fabi, subito dopo il giornale radio. Ovviamente noi ci troviamo domattina.